Tempo fa contavo i giorni, che ora non conto più. Tempo fa facevo danni, che ora non faccio più. Leggevo libri e facevo geometrie, mettevo in disaccordo tutte le tue armonie, perché sentivo quelle mezze verità ed ero libero a metà. La meta rimaneva sempre quella che era il tempo del re, anche se penserai che all'origine ci sei, in fondo non sei esistito mai. Tempo fa cantavo frasi che ora non canto più. Tempo fa avevo rose che mai fioriranno più. Tempo fa viaggiavo molto e facevo geometrie e mettevo in disaccordo tutte le tue armonie, perché sentivo quelle mezze verità ed ero libero a metà. La meta rimaneva sempre quella che era il tempo del re, anche se penserai che all'origine ci sei, in fondo non